in primo piano. Alle 7:30 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Oggi, come sapete, in edicola non ci sono i quotidiani, ma ci sono ovviamente tutte le versioni online e quindi quelle andremo a scandagliare nella prossima mezz'ora. Vedremo molte notizie, diciamo, che si rincorrono, molti quotidiani aprono sulla loro edizione online, sulla loro edizione digitale, sul, ad esempio, il ritorno alla ribalta del leader nordcoreano, una notizia delle ultime ore, quindi la ritroveremo spesso, e poi tutti gli approfondimenti che riguardano la fase 2 che ormai è alle porte. Ma andiamo con ordine, iniziamo dal Sole 24 Ore. Sole24ore.com, virus regione per regione, l'indice di trasmissibilità della malattia, quindi seguono tutti i dati, la mappa, a che punto siamo con il vaccino, chi è più vicino alla meta, questo è il titolo di apertura. Dopodiché due approfondimenti ci sono in primo piano, uno sulla ripartenza, investimenti e burocrazia zero, come sarà il piano rinascita del governo, dalla visita alla fidanzata alla casa al mare, le 10 domande e le 10 risposte che tutti abbiamo bisogno di leggere in queste ore per sapere come cambierà, quanto cambierà la nostra vita dalla settimana prossima. Poi l'intervista BTP Italia, la strategia del tesoro per finanziare l'extra deficit contro il virus, l'impatto del taglio alla cieca di Fitch sui titoli di Stato. Questo un intervento tra l'altro di Deborah Rosciani che i nostri ascoltatori ben conoscono. Dal Sole 24 Ore ancora ricordiamo il messaggio per il 1° maggio del Presidente della Repubblica Mattarella: il paese riparte dal lavoro, il governo dia indirizzi chiari. E poi il Premier: chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti, in arrivo aiuti più pesanti. Questo per quel che riguarda anche il 1° maggio. Andiamo a questo punto a vedere anche le aperture degli altri quotidiani prima degli approfondimenti. La Repubblica tutta pagina, sempre sulla Repubblica.it, ovviamente non lo ripeterò più, comunque quelli sono i quotidiani di oggi, quelli online. A tutta pagina, dicevo, una fotografia del Premier Conte: riforme, alleati, nuova fase 2, così Conte si prepara a rispondere alla offensiva di Renzi. Corea del Nord, eccolo qui, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni, la notizia dall'agenzia di stampa nordcoreana KCNA, il leader non si mostrava dall'11 di aprile, avrebbe assistito al completamento di un impianto di fertilizzazione a nord di Pyongyang. Concertone del 1° maggio su Repubblica, che da ieri ha sempre aggiornato appunto sul concertone e tutti i temi correlati. Emozioni anche senza piazza. Sting: lavoratori d'Italia siete bravissimi. Britti chiude suonando Hendrix in San Giovanni. L'ex Police ripropone Don't Stand So Close to Me, che diventa quindi un po' l'inno del distanziamento. Bugo duetta con Savino nella parte di Morgan, e poi il messaggio di Vasco, Patti Smith, Nannini, Gabbani, Stato Sociale, Fratelli Bennato, e via via ripercorre Repubblica in questo articolo tutti gli interventi della giornata di ieri. Poi sempre da Repubblica.it, Zaia: il Veneto può riaprire tutto a settembre, 30.000 tamponi al giorno. Il governatore dice: noi non ritiriamo le nostre ordinanze. Al governo dico che serve un piano per aiutare i genitori che tornano al lavoro e che non possono seguire i figli a casa. Altro tema che si rincorre sui quotidiani, ma non certo da oggi. In Calabria anche i medici contro Santelli per la riapertura di bar e ristoranti. L'esperto scelto per la task force sconfessa il governatore, la governatrice della Calabria: non mi ha consultata, io l'avrei sconsigliata. Anche questo è un tema che ritorna sulle pagine dei quotidiani. Poi infine su Repubblica voglio ricordare anche questo titolo, che poi ci torneremo: la pandemia aggrava la condizione femminile. Il 72% dei lavoratori che rientrano il 4 maggio saranno infatti uomini. E andiamo al Corriere.it, che sceglie di aprire su Pyongyang. Nord Corea, Kim Jong-un torna di nuovo in pubblico dopo 3 settimane di silenzio. Si erano susseguite molte indiscrezioni sulle condizioni di salute del leader, fino ad ipotizzarne la morte. L'agenzia di stampa KCNA però dice: tutti hanno applaudito fragorosamente e gridato evviva. Corriere.it, di spalla a questo punto troviamo il concertone del 1° maggio, lo show di Gianna Nannini con lo Skyline di Milano. Sceglie questa fotografia proprio di Gianna Nannini e lo sfondo della città di Milano, il Corriere, per ricordarci il concertone. Ci sono poi tutti i numeri dell'epidemia, così si muove l'epidemia in Italia, la mappa, i numeri, i casi nel mondo, i malati a Milano per comune. E poi la ripartenza, fase 2 e vacanze, steward in spiaggia, braccialetti anti-assembramenti, fuori regione con l'indice di contagio a 0,2. E ancora una volta vediamo la fotografia della polizia con i quad sulla spiaggia che controlla, diciamo, coloro che si avvicinano, e c'è un approfondimento di Fiorenza Sarzanini su le regioni e come si stanno organizzando. In Veneto si realizzeranno postazioni di 50 metri quadri in riva al mare, in Campania termoscanner per chi accede alle spiagge, numero chiuso in Sardegna. Fase 2, riaperture delle regioni, il decreto per accelerarle dal 18 di maggio. E ricordo un altro tema dal Corriere.it. Gianluca Mercuri infatti propone una parte traduzione, in parte commento, di un editoriale che è comparso sul settimanale tedesco Der Spiegel, che ha avviato ora una campagna pro Italia, sembra. Avanzi di bilancio dal 92, spese pubbliche ferme dal 2006, tocca a noi fare qualcosa, dice lo Spiegel. Andremo a leggere questo approfondimento, anche se appunto l'editoriale è uscito qualche giorno fa, se ne è un po' già parlato in giro, ma non con questo dettaglio. L'apertura della stampa: coronavirus, patto europeo per il vaccino, lunedì sottoscrizione da 7,5 miliardi, il documento dei leader europei. E si riporta poi, lo leggiamo nel dettaglio, il documento appunto sottoscritto da Conte, Macron, Merkel, Charles Michel e via. Per il vaccino. Coronavirus, la storia di Fabiola bloccata in India, mi hanno cancellato 3 voli, Farnesina dove sei? Il grande tema degli italiani bloccati all'estero, non sono certamente pochi e vivono una condizione di assoluta incertezza sia per il loro ritorno sia nel paese in cui si trovano, in particolare l'India, dove sicuramente l'epidemia è presente ed è circoscritta solo in poche aree, altrove si sta espandendo. Sulla stampa vediamo anche il lancio di un approfondimento su Renzi dopo le bordate in Senato. Da Conte oggi segnali incoraggianti, ma dove si può ripartire subito? Così si domanda il leader di Italia Viva. E poi ancora il Premier: chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti, nuovi aiuti più veloci. Scontro tra governo e Calabria, Santelli dice non faccio retromarcia, tema che abbiamo appena visto appunto dalla pagina di Repubblica. Andiamo a questo punto al Messaggero. Kim Jong-un è vivo, ecco le foto in pubblico dopo 3 settimane di silenzio. Corea del Nord, l'intelligence di Taiwan, Kim Jong-un è malato, aveva detto. Il treno del leader è segnalato ancora a Wonsan. Kim Jong-un clinicamente morto, il sinologo Xi Jinping, iniziata la lotta di successione, ma sulla sorte del leader è giallo. Eh sì, perché un po' è stato dato per morto da molte fonti diverse, ma adesso queste immagini di questa inaugurazione di un impianto di fertilizzanti lo danno per vivo. Come sempre le notizie della Corea del Nord sono difficili anche da verificare. Sul Messaggero, concertone del 1° maggio, piazza vuota, star online, Vasco e Zucchero vi abbracciamo, ci sono ovviamente tutte le fotografie e anche diversi audio. Reddito di emergenza da 400 a 800 euro, i requisiti, babysitter fino a 1200 euro, sì al bonus golf e badanti. E qui entriamo più nel dettaglio delle misure appunto per l'emergenza. Di spalla virus Trump, ho la certezza che provenga da un laboratorio di Wuhan. Lo ha già detto altre volte, lo ha ripetuto ieri il presidente degli Stati Uniti. Su questa questione tra l'altro si discute da tempo, le ultime notizie appunto Le ultime ipotesi erano state rilanciate anche recentemente e arrivavano da Mosca questa volta, le riportava Igor Pellicciari, che è un analista specializzato su appunto la Federazione Russa, secondo il quale a Bergamo i militari russi cercavano per l'appunto evidenze di origine dell'origine naturale o meno di questo virus. E quindi adesso anche Trump ripete, lui dice addirittura: ho la certezza che provenga da un laboratorio di Wuhan. Virus, morti in calo nelle ultime 24 ore, ci ricorda ancora il Messaggero, diminuiscono ricoveri e nuovi contagi. E poi anche qui Zaia, il Veneto può già riaprire tutto, Lombardia anche i guanti sui bus, regioni in ordine sparso dal 18 di maggio. E andiamo a questo punto al giornale, tutta pagina giornale.it, la ricomparsa in pubblico di Kim dopo 3 settimane di silenzio. Secondo la KCNA, quindi abbiamo detto l'agenzia di stampa nordcoreana, Kim avrebbe assistito all'inaugurazione di un impianto a Pyongyang, tanti applausi e urla di gioia. Subito sotto la Santelli, quindi la governatrice della Calabria, finisce sotto attacco. Rallenta di poco il calo dei positivi al Covid-19 e poi ancora i contagi sono in aumento, reparto chiuso al San Giovanni, così ci ricorda il giornale. E andiamo al Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura con una fotografia di Battista. Disinnescare Renzi, altri più potenti brigano per un governo tecnico, dice Di Battista. Ministro Boccia, escludo un governo del PD senza il Movimento 5 Stelle. In Calabria l'infettivologo scelto da Santelli critica la governatrice. Aperture, io non sono stato consultato, l'avrei sconsigliata. E poi verso il 4 maggio ecco le regole adottate dalle regioni. Come vediamo, ogni quotidiano, online o meno, fa per i lettori un riassunto, un decalogo di come muoversi nelle prossime ore. E sottolinea anche le differenze, perché ci sono regioni in cui certe cose possono essere fatte. In Emilia-Romagna, ad esempio, consentiti gli sport di squadra, gli allenamenti individuali degli sport di squadra. In Campania e Lombardia obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. In Sicilia ok agli spostamenti nelle seconde case. In Calabria la governatrice tira dritto e dice: non ritiro l'ordinanza. Il Fatto Quotidiano mette in giusta evidenza anche sui temi del lavoro quello degli addetti alle pulizie in appalto negli ospedali e riporta: nei reparti Covid per 7 euro all'ora, le storie di chi non si è fermato. Dal Avvenire, a questo punto, prima pagina, scusate ma devo balzellare tra i siti, ovviamente questo comporta qualche esitazione, mi scuserete. Avvenire.it, l'apertura, Covid, ovviamente Bassetti dice: Maria, nelle tue mani la fatica e la speranza di tutta la comunità. Si ricorda il maggio, il mese dedicato alla Madonna. E poi qui ci si dedica in particolare da lunedì di nuovo ai funerali con il governo, confronto e dialogo. Questo è uno dei temi importanti della prima pagina di Avvenire.it. Il 1 maggio Mattarella, finalmente si riparte ma serve ancora prudenza. Da Avvenire vi porto al Manifesto, dove l'apertura ovviamente è dedicata a tutti i temi del lavoro. La tempesta del lavoro, questo è il titolo di apertura online, le scoperte di questo 1 maggio, quanto c'è oggi di più pericoloso è l'idea che allontanato il virus si possa ricominciare come prima. Dovrà cambiare la produzione e quindi il lavoro, qualcosa di così difficile che potrebbe portare a una drammatica disoccupazione. Il tempo che ci attende riproporrà uno scontro di classe di una durezza che forse non abbiamo ancora mai sperimentato. E poi ancora: lavorare stanca, strage sul lavoro, 2 morti ieri, già 98 per Covid. I dati INAIL, ben 28.000 denunce di infortuni da contagio, ma sono solo il 40% del totale. Quasi la metà dei casi da contagio riguarda infermieri e tecnici, il 71% del totale sono donne. la protesta dei lavoratori della sanità, sempre sul Manifesto, la nostra vita ha un valore. Poi primo maggio, flash mob e campagne sociali, le lotte oggi sono anche online. E a questo punto direi che prima di proseguire con gli approfondimenti abbiamo la viabilità e ci ritroviamo tra pochissimo. In primo piano. E quindi eccoci di nuovo insieme, vediamo qualche approfondimento appunto dalle prime pagine, dalle pagine online dei quotidiani. Allora, di Trump che ha la certezza che il virus provenga da un laboratorio, abbiamo già detto, vi leggo qualche passaggio sulle sue dichiarazioni, in questo caso sono riportate da Il Messaggero, ma insomma le troverete un po' ovunque. Donald Trump torna all'attacco della Cina, da cui è partita la pandemia di Covid-19, assicurando di avere le prove sull'origine del coronavirus in un laboratorio di Wuhan, ma di non poterne ancora parlare. Vedremo da dove è nato, ha sostenuto il presidente parlando ieri ad un evento alla Casa Bianca. Abbiamo persone che stanno esaminando la questione, scienziati, gente dell'intelligence, altri. Metteremo tutto insieme quello che verrà fuori. Penso che alla fine avremo una risposta molto buona e anche la Cina potrebbe dircelo. Incalzato dalle richieste dei giornalisti di dire di più sulle prove che avrebbe per dire che il virus è originato nell'istituto di virologia di Wuhan, Trump ha tagliato corto. Non posso dirvelo, non mi è permesso parlarvene. Le dichiarazioni del presidente sono arrivate dopo che l'ufficio del direttore generale dell'intelligence nazionale ha affermato che la comunità di intelligence concorda con l'ampio consenso scientifico secondo cui il Covid-19 non è un prodotto umano o geneticamente modificato. Fin qui in realtà avevamo sentito un po' il contrario, e quello che in questo passaggio riportato dal Messaggero manca, ma c'è nel video che era allegato a questo articolo, è l'attacco che anche in questa occasione Trump ha sferrato all'OMS, riconducendo ancora una volta la questione sul denaro che gli Stati Uniti versano all'OMS. Il denaro che versano gli Stati Uniti è di più di quello che versa la Cina, e vabbè, è un modo suo solito di leggere le questioni. Andiamo ad altri approfondimenti sul Corriere della Sera. Qualche passaggio dell'articolo di Ferenza Sarzanini sul coronavirus, autocertificazione, congiunti, seconde case, quello che il governo deve chiarire. Modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti, mascherine. Entro domenica 3 maggio il governo dovrà chiarire una serie di disposizioni contenute nel DPCM che entra in vigore lunedì, il 4 maggio, e apre la fase 2. L'ufficio legislativo di Palazzo Chigi potrebbe fare alcune correzioni al testo prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, oppure pubblicare alcune FAQ, risposte a domande frequenti, sul sito del governo. Soltanto dopo il Ministero dell'Interno invierà a prefetti e questori la circolare per l'effettuazione dei controlli sul rispetto delle nuove norme, e dunque bisognerà fornire chiarimenti affinché i cittadini non rischino la multa per non avere rispettato le nuove norme. I tempi, come vedete, sono strettissimi, quindi diciamo o c'è bontà da parte di chi applica queste norme da lunedì, o ci dovrà essere da parte nostra molta prudenza. Chi sono i congiunti? Il nuovo provvedimento prevede che si possa uscire per 4 motivi: esigenze lavorative comprovate, situazioni di necessità, motivi di salute, visita ai congiunti. Il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato che tra i congiunti sono compresi gli affetti stabili. Il viceministro della Salute Sileri ha detto che tra i congiunti ci sono anche gli amici. Dunque nel testo o nelle FAQ, quindi le domande frequenti, si dovrà inserire la lista dei congiunti ai quali si può fare visita. Identità dei congiunti. Per motivi di privacy non dovrà essere indicata nel modulo l'identità dei congiunti, è un altro aspetto che dovrà essere specificato. Spostamenti nella regione. Nel decreto gli spostamenti sono consentiti all'interno della regione. Dovrà essere chiarito se le visite ai congiunti che vivono fuori dal proprio comune di residenza devono essere in giornata, o se invece si può rimanere più di un giorno. Sono consentiti gli spostamenti all'interno della regione e il ritorno presso il domicilio. Si dovrà dunque chiarire se rimane il divieto di trasferirsi presso le seconde case. Poi c'è il tema passeggiate. Secondo il decreto si può andare a passeggiare anche lontano dalla propria abitazione, dunque si deve chiarire se è necessaria in questo caso l'autocertificazione. Sport all'aria aperta. Il decreto consente attività motorie all'aperto, anche lontano dalla propria abitazione e senza autocertificazione. Si deve chiarire se ci saranno limitazioni. E infine, per quel che riguarda l'autocertificazione, l'orientamento del Viminale è quello di non stampare un nuovo modulo e consentire ai cittadini di utilizzare il vecchio modulo per l'autocertificazione. Palazzo Chigi dovrà confermare che le correzioni sul vecchio modulo sono valide. Così Fiorenza Sarzanini ricapitola alcune delle questioni ancora incerte e da chiarire nelle prossime 24 ore, 36 ore a questo punto. Allora andiamo alla stampa. Alla stampa vorrei semplicemente mettere in ordine. Ok, la stampa. Allora iniziamo da questione più politica, coronavirus Renzi. Da Conte oggi segnali incoraggianti, ma dove si può bisogna ripartire subito. Matteo Renzi, dopo le bordate di ieri in Senato contro il premier Conte, dice di vedere segnali incoraggianti nei rapporti tra le forze di maggioranza a proposito della fase 2. Lo spero, dice il leader di Italia Viva, tra il restare all'interno di un governo che a suo dire calpesta la Costituzione e uscire dall'esecutivo, Renzi dice di vedere una terza ipotesi. Una terza. Il governo smette di fare DPCM, il governo inizia a dare i soldi, le cose che noi abbiamo contestato, anziché essere criticate per partito preso, per pregiudizio ideologico, vengono considerate per quello che sono. Il tentativo di dare un aiuto concreto e si inizia a fare le cose sul serio. Il presidente del Consiglio, aggiunge Renzi, si è reso conto che le cose non vanno sulla liquidità. Renzi avverte che c'è una divisione sempre più forte tra chi è garantito e chi no, e non c'è solo l'elemento psicologico. Dopo 2 mesi di domiciliari, sottolinea, mancano le certezze. L'Italia adesso ha quasi 10.000 posti letto in terapia intensiva disponibili e la buona notizia è che ogni giorno sta diminuendo il numero delle persone costrette a questi reparti. Significa che il rischio del collasso delle terapie intensive, molto fondato qualche settimana fa, adesso non c'è. Quindi con prudenza, in sicurezza, sapendo che dovremo convivere con il virus ancora a lungo, dobbiamo ripartire, altrimenti il collasso sarà quello dei posti di lavoro. Così appunto questo articolo sulla stampa relativamente alla questione Renzi. Sempre dalla stampa vi avevamo annunciato questo coronavirus patto europeo per il vaccino, lunedì sottoscrizione da 7,5 miliardi, il documento dei leader europei. Il mondo contro il Covid, su iniziativa della Commissione europea, i capi di Stato e di Governo di Italia, Francia, Germania e Norvegia, che sono i sottoscrittori appunto, insieme col numero uno del Consiglio europeo, annunciano un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino che azzeri il coronavirus, una mossa che coinvolgerà scienziati e autorità di normazione, industria e governi, organizzazioni internazionali, fondazioni, operatori sanitari. L'iniziativa, definita in una lettera che la stampa pubblica in esclusiva per l'Italia, culminerà lunedì 4 maggio in una conferenza di donatori con cui si punta a mettere insieme almeno 7,5 miliardi di euro. Il testo è firmato da Giuseppe Conte, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, Erna Solberg, primo ministro del Regno di Norvegia, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Il caso aiuta la mente preparata, vi leggo giusto l'incipit di questa lettera. Il caso aiuta la mente preparata, diceva Louis Pasteur, uno dei più grandi scienziati di sempre, padre dei vaccini e di scoperte che negli ultimi 3 secoli hanno salvato milioni di vite. Oggi, proprio come allora, il mondo sta combattendo contro un virus dilagante che ha travolto paesi e continenti, insinuandosi nelle nostre case e nei nostri cuori. Un virus che ha portato caos e sofferenza in tutto il mondo, privandoci dei gesti d'affetto dei nostri cari. E così appunto inizia questa lettera che trovate su lastampa.it, che punta appunto a creare questa grande santa alleanza contro il virus. Due passaggi prima di salutarci. Dalla Repubblica, nelle pagine di Economia e Finanza, la pandemia aggrava la condizione femminile, il 72% dei lavoratori che rientrano il 4 maggio sono uomini. Non è una scelta sessista, scrive Rosa Maria Amato, non è una scelta sessista del legislatore, naturalmente, ma la conseguenza delle attività che presentano un rischio contenuto e che a breve potranno riprendere. Attività manifatturiere e delle costruzioni, tipicamente a prevalenza maschile, rileva uno studio pubblicato sulla voce.info. Questo massiccio rientro al lavoro di uomini, scrivono gli economisti Alessandra Casarico e Salvatore Lattanzio, finirà per caricare di ulteriori compiti di cura le donne all'interno della famiglia, rischiando, e qui non si legge un passaggio, comunque, rischiando ovviamente che queste donne poi restino a casa anche nei mesi a venire. Il gap del tasso di occupazione tra uomini e donne nella fascia di età usualmente considerata dalla statistica, quella tra i 15 e i 64 anni, è di quasi 18 punti. Eppure le donne hanno un grado di istruzione maggiore e sono presenti in molte professioni qualificate. Nel nostro paese, si legge in un appello lanciato oggi dalle donne scienziate, le donne rappresentano il 56% dei medici iscritti all'albo e sono quasi il doppio degli uomini tra i medici con meno di 40 anni. Il 77% degli infermieri è donna. Quindi, insomma, ci sono professioni e molte professioni a grande impiego femminile sono ferme, al di là di quella dei medici specifica, che sappiamo in questo momento altro che ferma. Passaggio finale su Corriere.it, dove Gianluca Mercuri ci riporta quell'editoriale di Spiegel di cui dicevamo all'inizio: l'Italia non è spendacciona, il mea culpa del settimanale Der Spiegel. È uscito 6 giorni fa, c'era sfuggito, ma è importante e ve lo proponiamo ora. Un altro articolo dello Spiegel a favore dell'Italia, dopo quello firmato dal direttore Stephen Klusman, ne avevamo parlato nella rassegna del 9 di aprile, scrive Mercuri, che arrivava a definire gretto e vigliacco il rifiuto tedesco degli eurobond. Ora è l'editorialista Thomas Fricke a intervenire con un'analisi ancora più efficace, perché addenta tutti gli stereotipi ed entra nel merito della grande questione del debito pubblico italiano, spiegando perfettamente la nostra trentennale virtuosità. Leggiamo qualche passaggio più avanti perché abbiamo meno di un minuto. Il vero dramma dell'euro risiede nel cliché erroneo dell'Italia spendacciona. Questo non ha nulla a che fare con la realtà e sta per disintegrare l'Europa, scrive Fricke, che citando l'economista Antonella Sturati dell'Università Roma 3 spiega che se non si calcolano i pagamenti degli interessi, dal 92 i governi italiani hanno avuto eccedenze di bilancio anno dopo anno. Altro che attitudine allo spreco, insomma, il cancro del debito ci ha fatto smettere di spendere. Dal 2000 gli investimenti pubblici italiani sono calati del 40%, un collasso regolato per legge. Nell'istruzione si è investito quasi un decimo, una follia. Le spese pubbliche ristagnano dal 2006. In Germania sono aumentate quasi del 20%. E questa tendenza è diventata poi una catastrofe a partire dall'eurocrisi, quando Mario Monti, sotto la pressione internazionale e in particolare tedesca, ha iniziato una riforma dopo l'altra, una volta sul mercato del lavoro, un'altra volta sulle pensioni, e poi taglia la sanità dal 2010, che tanta parte hanno nella tragedia della pandemia. E così scrive Der Spiegel, riportato da Corriere.it. Noi ci fermiamo, c'è GR24 e alle 8:30 invece ci ritroviamo.